Questa è la parola che il profeta Geremia rivolse a Baruch, figlio di Neria, quando scriveva queste parole nel libro per ordine di Geremia, nell'anno quarto di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Così dice il Signore, Dio di Israele, a tuo riguardo, o Baruch. Tu dici, oimè, perché il Signore aggiunge affanno al mio dolore? Io sono affannato nei miei gemiti e non trovo riposo. Così dirai a lui. Così dice il Signore. Ecco, ciò che io avevo edificato lo distruggo, e ciò che avevo piantato lo sradico, cioè tutto il paese. Ma tu reclami per te cose grandiose. Non reclamarle, perché ecco, io sto per addurre sventura su ogni uomo, oracolo del Signore. Ma a te ho dato la tua vita come bottino in ogni luogo, dovunque tu andrai.